L'Intel ha continuato a seguire la legge di Moore, che fu per la prima volta enunciata nel 1965, poi di nuovo nel 1975 con una revisione, per cui ogni 2 anni creiamo una tecnologia che può raddoppiare il numero di componenti sullo stesso chip. L'avvento della tecnologia da 45 nanometri segue da 2 anni la tecnologia da 65, che venne 2 anni dopo quella da 90, e ci si aspetta che la tecnologia da 32 nanometri arriverà nell'anno 2009, mentre quella da 22 nanometri arriverà nell'anno 2011. Senta, ci può spiegare che cosa significa produrre un chip con tecnologia a 45, oggi a 65 nanometri? Quindi nello specifico, che cosa questo significa e qual è il vantaggio della progressione, quindi delle distanze sempre più piccole? Queste misure si riferiscono a una misura media, ovviamente, perché ci sono così tanti componenti su un chip, le dimensioni orizzontali, per esempio, per cui uno si può immaginare che il mattone di base è un quadratino di 45 nanometri con una piastrella di 45x45. Per poter farlo, il primo ingrediente sono le tecnologie litografiche, e queste sono l'analogo delle tecnologie che si usano quando, dopo aver fatto una fotografia, uno vuole proiettare o stampare qualcosa, con la differenza che in questo caso si sta cercando di proiettare qualcosa più piccolo e non più grande.